Corny Keller chiuse il lungo brogliaccio e abbassò lo sguardo su un coperchio di bara di pino di sentinella in un angolo. Si rizzò, si avvicinò e, facendolo roteare sul suo asse, ne esaminò la linea e le rifiniture in ottone. Masticando una pagliuzza, mise da parte il coperchio di bara e si avvicinò alla soglia. Là si tirò sugli occhi la falda del cappello per farsi ombra e si appoggiò ad uno stipite, guardando pigramente fuori. Padre John Conmee saliva sul tram di Dolly Mount al ponte New Comen. Corny Keller incrociò le grosse scarpe e guardò davanti a sé, cappello tirato sugli occhi, masticando la sua pagliuzza. Il vigile 57C, di fazione, si fermò per fare due chiacchiere. «È una bella giornata, Mr. Keller!» «Davvero!» disse Corny Keller. «Cappa di piombo!» disse il vigile. Corny Keller fece volare uno spruzzo silenzioso di sugo di paglia che si inarcò dalla sua bocca, mentre un generoso braccio bianco da una finestra di Eccles Street buttava giù una moneta. «Che c'è di bello?» chiese. «Vista quella certa persona ieri sera», disse il vigile abbassando la voce. Un marinaio con una gamba sola svoltò a forza di stampelle l'angolo di McConnell, rasentando il carretto di Rabaiotti, il gelataio, e si spinse con uno strattone su per Eccles Street. All'altezza di Larry O'Rourke, in maniche di camicia sulla soglia della bottega, ringhiò sgraziatamente. «Per l'Inghilterra!» Si lanciò in avanti con un brusco strattone, oltrepassando Katie e Buddy Dedalus. Si fermò e ringhiò. «La casa e la beltà!» Il bianco volto di J.J. O'Molloy, roso dalla preoccupazione, si sentì annunciare che Mr. Lambert era nel magazzino con un visitatore. Una signora grassa si fermò, prese dal borsellino una moneta di rame e la lasciò cadere nel berretto teso verso di lei. Il marinaio mugugnò qualche ringraziamento e dette un'occhiata acida alle finestre noncuranti, abbassò di botto la testa e si spinse avanti di quattro passi. Si fermò e ringhiò irosamente. «Per l'Inghilterra!» Due monelli scalzi, succhiando lunghe stringhe di liquirizia, si fermarono presso di lui, fissando il suo moncherino con la bocca aperta tutta impiastricciata di giallo. Lui si spinse avanti con strappi vigorosi, si fermò, alzò la testa verso una finestra e abbaiò con voce profonda: «La casa è la beltà!» L'allegro, dolce cinguettio che fischiettava all'interno proseguì per una battuta o due, poi cessò. La tendina della finestra fu tirata da parte. Un biglietto, camere non ammobiliate, scivolò giù dal telaio e cadde. Un braccio paffuto, nudo e generoso, brillò. Fu visto, emergente da una combinazione bianca e da spalline tese. Una mano di donna gettò una moneta oltre l'inferriata dell'interrato. Cadde sul marciapiede. Uno dei monelli corse verso di essa, la raccolse e la lasciò cadere nel berretto del menestrello, dicendo: «Ecco, signore!» Katie e Buddy Dedalus spinsero la porta della cucina piena di vapore soffocante. «Gli hai piazzati i libri?» chiese Buddy. Maggie al fornello spinse due volte in giù col mestolo una massa grigiastra sotto la schiuma in ebollizione e si asciugò la fronte. «Non me li volevano pagare niente», disse. Padre Conmee passeggiava per i campi di Clongowes, le caviglie inguainate dalle calze fini titillate dalla stoppia. «Dove hai provato?» chiese Buddy. «Da McGinnis!» Buddy batté un piede per terra e gettò la cartella sulla tavola. «Potesse schiantare la trippona!» gridò. Katie andò al fornello e scrutò con occhi strabici. «Che c'è in pentola?» disse. «Camice!» disse Maggie. Buddy urlò irosamente. «Cribbio! Non c'è nulla da mangiare!» Katie, alzando il coperchio del bricco con un lembo della camicia macchiata, chiese: E qui cosa c'è? Un fumo pesante sprizzò fuori in risposta. Minestra di piselli, disse Maggie. Dove li hai presi? Chiese Katie. Suor Mary Patrick, disse Maggie. Il banditore fece squillare il campanello. Barang! Woody sedette a tavola e disse affamata: Da qua, forza! Maggie versò la spessa zuppa gialla dal bricco in una terrina. Katie, seduta di fronte a Woody, disse tranquillamente, mentre la punta di un dito le portava alla bocca alcune briciole sparse: Meno male che abbiamo questo tanto. Dov'è Dilly? Andata incontro al babbo, disse Maggie. Woody, spezzando grossi pezzi di pane nella minestra gialla, aggiunse: Padre nostro che non sei nei cieli. Maggie, versando la minestra gialla nella tazza di Katie, esclamò: Woody, vergognati! Un canotto, un volantino accartocciato, e Lia viene. Veleggiava lievemente giù per la Liffey, sotto il ponte della circolare, risalendo le rapide dove l'acqua ribolliva attorno ai piloni del ponte, navigando a est, al di là di carene e catene d'ancore, tra il vecchio molo della dogana e la riva George. La ragazza bionda nel negozio di Thornton copriva il fondo del paniere di vimini con fibre fruscianti. Blazes Boylan le porse la bottiglia rinvoltata in carta velina rosa in vasetto. Ci metta prima questi, per piacere, disse. Sì, signore, disse la ragazza bionda, e sopra le frutta. Ottimamente, e il gioco è fatto, disse Blazes Boylan. Dispose in ordine le pere belle grosse, testa contro coda, e in mezzo alcune pesche mature e pudiche. Blazes Boylan passeggiava su e giù per la bottega odorosa di frutta con le scarpe gialle nuove, prendendo in mano i frutti, i giovani pomodori rossi, succosi, rugosi e tondi, annusando gli aromi. HELY'S sfilarono davanti a lui, con le tube bianche, oltre il vicolo Tangier, strascicando i piedi verso la loro meta. Si volse a un tratto da un panierino di fragole, tirò fuori dal taschino un orologio d'oro e lo allontanò da sé per tutta la lunghezza della catena. Lo può mandare col tram, subito? Una sagoma dalla schiena scura sotto l'arco dei mercanti scrutava libri sul banchetto di un rivenditore. Certo, signore. È in città? Oh sì, disse Blazes Boylan. 10 minuti. La ragazza bionda gli porse un foglietto e la matita. Le spiace scrivere l'indirizzo, signore? Blazes Boylan scrisse sopra il banco e spinse il foglietto verso di lei. Lo mandi subito, mi raccomando. Disse: È per un infermo. Sì, signore, senz'altro, signore. Blazes Boylan fece ballare allegre monete nella tasca dei pantaloni. E quanto ci rimetto? Chiese. Le dita esili della ragazza bionda contarono i frutti. Blazes Boylan guardò dentro lo spacco della camicetta. Una pollastrella. Levò un garofano rosso dal portafiori alto. È per me? Chiese con aria galante. La ragazza bionda lo guardò di traverso, roba costosa addosso, la cravatta un po' storta, arrossendo. Sì, signore, disse. Chinandosi, sornione, seguitò a contare le grosse pere e pesche arrossite. Blazes Boylan guardò con maggiore compiacenza dentro la camicetta, il gambo del fiore rosso tra i denti sorridenti. Posso dire due parole al suo telefono, signorinetta? Chiese in tono malizioso. Ma, disse Almidano Artifoni. Al di sopra della spalla di Steven fissava la zucca bernoccoluta di Goldsmith. Passavano lentamente due vetture di turisti, le donne sedute davanti, saldamente aggrappate ai braccioli, visi pallidi, braccia d'uomini saldamente avvinte alle loro figure rattrappite. Guardarono Trinity e subito dopo il porticato cieco della Banca d'Irlanda, dove i piccioni tubavano. Anch'io ho avuto di queste idee, disse Almidano Artifoni. quando ero giovane come lei. E poi mi sono convinto che il mondo è una bestia. È peccato, perché la sua voce sarebbe un cespite di rendita, via. E invece lei, si sacrifica. Sacrificio incruento, disse Steven sorridendo, facendo lievemente ondulare in lento dondolio il bastone di frassino tenuto a mezz'asta. Speriamo, disse allegramente il viso tondo e baffuto, ma dia retta a me, ci rifletta. All'altezza della severa mano di pietra di Grattan, che ingiungeva di fermarsi, un tram di Inch Corps scaricò gli Highlanders di una banda militare, in ordine sparso. Ci rifletterò, disse Steven, abbassando lo sguardo sui solidi pantaloni dell'altro. Ma sul serio, eh? Disse Almidano Artifoni. La sua mano pesante strinse fermamente quella di Steven. Occhi umani. Fissarono curiosi per un istante e si volsero velocemente verso un tram di Dalkey. Eccolo, disse Almidano Artifoni, con amichevole premura. Venga a trovarmi e ci pensi. Addio, caro. Arrivederla, maestro, disse Steven, togliendosi il cappello non appena ebbe la mano libera. E grazie. Di che? Disse Almidano Artifoni. Scusi, tante belle cose. Almidano Artifoni, alzando un rotolo di musica a mo' di segnale, trottò coi suoi robusti pantaloni dietro al tram di Dalkey. Trottò invano, facendo segno invano in mezzo alla calca di scozzesi dalle ginocchia nude che contrabbandavano i loro utensili di musica attraverso i cancelli di Trinity. Miss Dunn nascose in fondo al suo cassetto la copia della Donna in bianco presa alla biblioteca circolante di Capel Street e arrotolò un foglio di sgargiante carta da lettere nella macchina da scrivere. Ci sono dentro troppi enigmi polizieschi. Ma lui è innamorato di quella, Marion? Cambiarlo e prenderne un altro di Mary Cecil Hay. Il disco scivolò giù per la scanalatura. Vibrò un po', si fermò e fece loro l'occhiolino. Sei. Miss Dunn picchiettò sulla tastiera. 16 giugno 1904. Cinque uomini sandwich con la tuta bianca tra l'angolo di Monypenny e il piedistallo dove non c'era la statua di Wolfe Tone girarono snodandosi HELY e tornarono indietro strasciconi come erano venuti. Poi guardò il gran cartellone di Mary Kendall, l'incantevole soubrette, e gingillandosi distrattamente scribacchiò sul taccuino tanti 16 e S maiuscoli. Capelli color senape e gote imbellettate. Non è carina, no. Guardate come si tien su il lembo della gonnella. Chissà se quel tale ci sarà stasera a sentir la musica, se mi potessi far fare da quella sarta una sottana fisarmonica come quella di Susie Nagel. Fanno la ruota. Shannon e tutti quei gagà dei canottieri non le hanno più levato gli occhi di dosso. Speriamo bene che non mi tenga qui fino alle 7. Il telefono le squillò brutalmente alle orecchie. Pronto? Sì, signore. No, signore. Sì, signore. Li chiamerò dopo le 5. Solo quei due, signore, per Belfast e Liverpool. Benissimo, signore. Allora posso andare dopo le 6 se lei non è tornato? Al quarto. Sì, signore. 27 e 6. Glielo dirò. Sì. 1, 7 e 6. Scrisse tre cifre su una busta. Mister Boylan, pronto? Quel signore dello sport è stato qui a cercare di lei. Mister Lenehan, sì. Ha detto che sarà all'Ormond alle 4. No, signore. Sì, signore. Li chiamerò dopo le 5.